ogni tanto penso a mia mamma gay. Oh, Pippina Pins, super culo. Yeah. Ma che bello, ma che bello, ma che bello, bello, bello, bello, bello, bello, ma che bello, quell'odore di gengiva. Non vado alla Hawaii, vado un cazzo volante. Un odore di gengiva, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Non sto andando alla Hawaii, faccio con la giapprera tu. Sto andando alla Hawaii, parlo solo di cazzate. Sto andando alla Hawaii, ma che cosa si può dire? Ma io scappo in bovisa, diamo in play a due. Lina cazzata è naturale, vado a delizia. Lina sarò un animale, diamo in play a due. Damoci adesso dai, mamma è gay, figa sarà. Ma adesso vera dove andrà? Sera una 10, cosa sarà? No. Abito al nord, vaffanculo. Vera due, vaffanculo. Vai cagare più del primo figlio! Ma che era due, non c'entro un cazzo! Vaffanculo, Bea due!